Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria, come già ricordavano i nostri GR e anche Salvadanaia questa mattina, lo scudo fiscale annunciato durante un convegno alla Fiera del Levante, che dovrebbero uscire oggi, essere pubblicati oggi i dettagli dello scudo fiscale. Sarà per noi anche l'occasione per tornare sui dati di ieri sulle entrate fiscali, ragionare su questo scudo, che ha gettiti attesi, poi vedremo se saranno invece poi anche reali. Il caso, che non c'entra nulla come contenuto, ma insomma il caso più recente della regolarizzazione di COF e badanti, non sta portando il gettito sperato da quello che vediamo dai dati. Poi magari ci sarà un recupero nel finale, un colpo di coda nel finale. Ma dicevo, occasione per ragionare sullo scudo fiscale, sulle entrate fiscali e sulla proposta che è arrivata oggi dal presidente dei commercialisti e del Consiglio Nazionale dei Commercialisti e degli Esperti Contabili, che ha detto: attenzione, più che continuare con questi studi di settore, introduciamo in maniera ancora più forte, utilizziamo in maniera ancora più forte il redditometro e andiamo a verificare tra tenore di vita, scusatemi, e reddito dichiarato, piuttosto che tra tenore di vita e reddito, o anzi piuttosto che tra reddito dichiarato e reddito della categoria a cui si appartiene, anche perché in questo periodo di crisi economica e di difficoltà è chiaro che poi gli studi di settore rischiano in alcuni casi di diventare di peccare di ottimismo quanto a andamento dell'attività e comunque di creare dei vantaggi di fatto per alcuni evasori. Ancora parleremo poi di borsa, che è adesso leggermente positiva, molto più incerta Wall Street, che continua a essere praticamente ferma. Da ieri Wall Street non dà variazioni, sta così ricordando l'anno dal Lehman Brothers in maniera assolutamente atipica, non si muove, gli indici sono invariati sul Dow Jones e praticamente anche sul Nasdaq. L'Europa, con una Wall Street che non dà indicazioni, prende atto. Francoforte più 0,1%, Londra più 0,7%, la migliore, assieme a Parigi più 0,7%, Milano più 0,3%, ma va molto bene Pirelli, più 3,5%, Parmalat più 3%, Campari più 2,6, Unipol più 2,3, Telecom Italia più 2%, Buzzi Unicem più 1,7, Terna più 1,3 come Geox e Tenaris, ma anche Snam, Rete Gas. Fronte opposto, Atlantia meno 1,1, Banco Popolare meno 0,6 come Mediolanum e Unicredito. Euro a quota 1,46 sul dollaro. Parleremo anche del settore dell'oro, recuperiamo il tema annunciato ieri con la fiera che è agli ultime giornate, la fiera di Vicenza, e parleremo anche dell'andamento dell'oro, ma della concorrenza che arriva dai cinesi. E poi avremo anche modo di toccare il tema del settore calzaturiero, da un lato, perché insomma oggi praticamente la presentazione dei dati della MICAM, il salone della scarpa e della calzatura, è anche l'occasione per fare il punto sul settore cruciale del nostro Made in Italy. 349-238-6666 per i vostri sms, le altre notizie in breve. Restiamo sui mercati, petrolio in rialzo ma di poco, a $69,5 al barile. La IATA invece ha alzato le stime sulle perdite delle sue associate. La IATA riunisce le principali compagnie aeree al mondo. Ebbene, praticamente l'industria aerea nel 2009 perderà $11 miliardi contro i $9 miliardi stimati in precedenza. Purtroppo la crisi del settore del trasporto aereo continuerà anche nel 2010, dove le perdite dovrebbero attestarsi intorno ai $4 miliardi. Nel frattempo peggiora ancora, se possibile, la media dei ritardi al decollo all'aeroporto di Roma Fiumicino. Secondo gli ultimi dati rilevati da Eurocontrol, è salita a 24 minuti per ogni volo a luglio rispetto ai 20 minuti di giugno. E il peggioramento rispetto a un anno prima è addirittura del 18%. Però Fiumicino non è più il peggior aeroporto d'Europa quanto a ritardi. È stata superata infatti da Atene, che a luglio ha fatto un più 46%, praticamente 26 minuti di ritardo per ogni volo. Buono il dato dall'America, ecco perché così ci si poteva attendere anche una reazione un po' migliore di Wall Street, perché ripartono i consumi negli Stati Uniti. Ad agosto l'indice delle vendite al dettaglio ha segnato una crescita del 2,7%. Ora, è chiaro che, lo diciamo spesso, se tu da quota 100 scendi a quota 60 hai perso il 40%, non è che se poi fai un più 10 hai recuperato tutto, vai a 66 e non ti basta neanche fare un più 40. Però è importante per capire l'inversione di tendenza. Ebbene, per la prima volta da 3 anni la crescita delle vendite al dettaglio in America è del 2,7%. Questo però soprattutto grazie al programma di rottamazione per le auto. Nel frattempo il segretario del Tesoro americano Tim Geithner, che è il ministro dell'economia americano, ha detto che la ripresa è fragile, l'America non è ancora entrata in una vera e propria ripresa e l'amministrazione Obama farà il possibile per accelerare la crescita economica. Anche Ben Bernanke, il numero uno della Banca Centrale Americana, la Federal Reserve, dice probabilmente la recessione è passata, c'è un forte accordo sul fatto che l'economia americana sia in ripresa. Nel frattempo il Dipartimento al Tesoro americano e il gruppo bancario Citigroup avrebbero iniziato a confrontarsi su come procedere per vendere la quota del 34% di Citigroup che si era comprato in piena emergenza, parliamo di poco meno di un anno fa. Il governo americano, proprio per salvare Citigroup, comprò il 34% della banca, 50 miliardi di dollari, non bruscolini, un anno fa per salvare Citigroup. Tra l'altro il Tesoro potrebbe adesso iniziare a vendere i titoli in suo possesso già a partire da ottobre, per poi completare l'operazione nel giro di 6-8 mesi. Va detto che rispetto ai valori di borsa di quando il Tesoro americano entrò in Citigroup ci sta anche guadagnando, e non poco, il Tesoro americano, che tra l'altro è il primo azionista di Citigroup ma anche di AIG e di General Motors. Nuovo appello delle Confindustrie europee per allentare le regole di Basilea 2, quelle regole che, come spiegammo più volte, implicano tutto un insieme di ratio, di rating, di voti da dare a un'impresa per se è affidabile o no nell'erogazione del credito, ma che, questa è l'accusa, tendono poi a essere impersonali, fredde, e quindi spersonalizzano il rapporto tra direttore di banca e impresa. Soprattutto in un momento di difficoltà rendono difficile queste regole capire se un'impresa è in difficoltà strutturale, allora fa bene la banca non dare credito, o è in un momento di difficoltà congiunturale, ma come l'economia ripartirà, ripartiranno anche i fatturati e gli utili dell'impresa stessa. Mercato dell'auto in Europa ad agosto è salito ancora, più 3% in Italia e più 8,5% in Italia, più 3% in Europa. Ne parleremo più avanti perché c'è anche il Salone dell'Auto di Francoforte, sarà un modo anche per capire come si muovono i grandi gruppi. A livello europeo, bene Fiat, più 11%, quindi sopra la media europea, ma il presidente di Fiat, Montezemolo, ha detto: non so se gli incentivi all'auto verranno rinnovati, ma posso dire che in Europa hanno portato benefici ed hanno salvato posti di lavoro. Ancora lavoro, le retribuzioni, veniamo all'Italia. Istat, corrono nel secondo trimestre dell'anno, più 4,6% delle retribuzioni di fatto contro un'inflazione al più 0,8%. Gli incassi dell'INPS tengono nonostante la crisi, un calo leggerissimo dello 0,4%, 91 miliardi, E tra l'altro l'INPS ha fatto sapere che le aziende italiane hanno utilizzato nei primi 8 mesi dell'anno solo il 60% delle ore di cassa integrazione richieste all'INPS e autorizzate dall'INPS. Ancora sul mercato del lavoro, questa volta però il ministro Sacconi che ha annunciato che intende convocare entro l'anno un tavolo per introdurre una maggiore flessibilità nell'orario di lavoro, soprattutto per favorire l'impiego dell'occupazione femminile. La crescita dell'occupazione femminile è largamente ancorata al tema della conciliazione. Con la collega Carfagna stiamo predisponendo un piano d'azione per 2 obiettivi fondamentali. L'uno è quello della modulazione degli orari di lavoro. Noi abbiamo ancora diffusamente un orario di lavoro fordista, cioè rigido, e l'obiettivo nostro è quello di convocare le parti sociali e ragionare con esse, sollecitarle ad un avviso comune, ad un accordo interconfederale, a una linea, a un accordo quadro che solleciti il cambiamento più radicale dell'orario di lavoro, la modulazione dell'orario di lavoro, ma anche questi accordi possono costituire la cornice entro cui si svolge un'intesa individuale. L'altro aspetto a cui dedicheremo attenzione, lo sviluppo dei servizi di cura non può avvenire soltanto attraverso ai livelli ai quali dobbiamo portare questi servizi di cura. Siamo a nemmeno al 10%, dobbiamo ragionevolmente puntare a un 30% medio nazionale almeno. Quindi ci concentriamo su queste 2 attività, convocazione delle parti sociali sulla modulazione degli orari e dall'altro lato diffusione dei servizi di cura all'infanzia attraverso in particolare la modalità di remunerazione dei buoni prepagati. È disponibile a ragionare sul tema Federica Guidi, presidente dei giovani e industriali, che appunto dopo l'apertura di Sacconi così ha commentato al microfono la nostra Chiara Di Michele. Credo che in effetti la conciliazione sia lo snodo fondamentale attorno al quale far ruotare tutte le possibili politiche che incentivino l'occupazione femminile. Conciliazione significa naturalmente dare alle donne la tranquillità non solo economica ma anche psicologica nello svolgere un compito potendo mettere la stessa passione, la stessa competenza che un collega uomo molto spesso può dare, perché non ha la testa impegnata sui ben noti carichi familiari che invece una donna ha. Come fare a diffondere le buone pratiche di pari opportunità in tutte le aziende? Indispensabile è la buona volontà da parte di tutti gli attori in gioco. Certo, non possiamo anche qui pensare che la responsabilità possa gravare solo in capo agli imprenditori. Ci vogliono le istituzioni dall'altra parte, nazionali, ma direi forse ancora di più quelle locali, che in qualche modo facciano progetti sui tessuti industriali produttivi, sui distretti. E credo da parte degli imprenditori la disponibilità a mettere in discussione un modo di lavorare che in qualche modo venga incontro alle esigenze delle donne che lavorano. Fisco adesso, come promesso, al 349-238-6666 stanno già arrivando le domande. Perché? Perché lo scudo fiscale edizione numero 3, potremmo dire, è ai nastri di partenza. Da oggi, infatti, fino al 15 aprile 2010 sarà possibile rimpatriare e regolarizzare i capitali detenuti all'estero pagando una somma. L'aliquota è più elevata dell'ultimo scudo, è infatti al 5% del valore rimpatriato. Si fa notare però dal Ministero che è una percentuale inferiore e anche non di poco a quella chiesta da altri paesi. E tra l'altro il rimpatrio poi si perfeziona pagando l'imposta che si applica sulle attività finanziarie e patrimoniali detenute a partire da una data e non successiva al 31 dicembre 2008 e rimpatriate, quindi regolarizzate, da oggi in poi. Ci sono poi tutto un insieme di caveat, di distinguo, di eccezioni di cui parleremo. Il motivo per cui ci occupiamo di fisco oggi è anche perché le entrate INPS, ma soprattutto le entrate fiscali di ieri, hanno fornito dei dati in chiaroscuro, perché da un lato il fisco fa sapere che gli incassi da cartelle aumentano più 20%. E anche i ruoli IRES, soprattutto più 57% in 7 mesi. Dall'altro, la Banca d'Italia ha fatto sapere che le entrate fiscali sono calate complessivamente a livello numerico di 8,3 miliardi in 7 mesi, un meno 4%. Un po' di dati leggermente diversi, ma perché si usano dei perimetri diversi. Comunque, in tutto questo scenario arriva poi la proposta dei commercialisti, per voce e ragionieri, per voce del suo presidente Claudio Siciliotti, che ha detto più redditometro e meno studi di settore. Di tutto questo parliamo anche con il diretto interessato. Presidente Claudio Siciliotti, lei che è ai vertici del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, buonasera. Buonasera a lei e ai suoi ascoltatori. Allora, Presidente Siciliotti, primo aspetto, lo scudo fiscale. Che cosa vi manca per poi essere operativi? Perché abbiamo letto che ancora alcuni dettagli non sono chiari. Sì, credo manchi ancora qualcosa. Queste misure funzionano se vi è certezza, e la certezza deve ancora essere data ai contribuenti che intendono avvalersi della manovra. Mi sente? Sì, molto bene. Allora, su questo, quando è che... Perché oggi l'annuncio è stato che sarebbero stati pubblicati oggi sostanzialmente i dettagli. Beh, diciamo che oggi sul sito dell'Agenzia delle Entrate dovrebbe essere pubblicata, così ha annunciato in un convegno questa mattina il direttore dell'Agenzia Befera, una bozza di discussione della circolare interpretativa. Sicuramente devono essere date certezze al tema delle sanzioni, che attraverso questo procedimento risulteranno ancora applicabili o meno. Deve, perché si parla diciamo lo scudo scuderebbe le irregolarità dal punto di vista di infedele o falsa dichiarazione fiscale, però ci sono molti altri aspetti di natura penale che viceversa rimangono fuori, quindi gli esatti confini del profilo sanzionatorio devono essere definiti, così come devono essere definite tutte le interrelazioni che esistono tra l'adozione di questo provvedimento e la normativa antiriciclaggio, ovvero anche la stessa disciplina del redditometro. Mi spiego molto semplicemente: se io importo 1 milione di euro e il giorno dopo mi compro la barca e qualcuno dice che questo acquisto non coincide con la ricchezza dichiarata, io non ho la possibilità di dimostrarlo, perché appunto dichiarazione anonima, e quindi tutti questi aspetti vanno chiariti. Credo che quando questi aspetti saranno chiariti sarà più facile definire i contorni di un provvedimento e le sue realistiche possibilità di successo. Ecco, chiariamo a tutti: siccome vige l'anonimato per l'intermediario e il contribuente compileranno infatti una dichiarazione riservata, l'intermediario, la banca, la SIM, le poste, le fiduciarie, una dichiarazione riservata che non verrà trasmessa al fisco, in cui saranno riportati gli importi che uno rimpatria, quelli che illegalmente ha portato all'estero. Ora lei dice: siccome il fisco non ne sa nulla, una fattispecie, un caso, potrebbe anche essere che viene a contestarmi un tenore di vita che non è corrispondente alla mia dichiarazione dei redditi, perché non sa che io nel frattempo ho rimpatriato, poniamo, 1 milione di euro. Lo posso dimostrare. Ecco, invece la parte a cui lei faceva riferimento sull'aspetto penale, che cosa vuol dire? Vuol dire che non è ben chiaro il confine delle sanzioni che non sono applicabili al momento. Ci sono tanti aspetti, diciamo l'evasione fiscale può dipendere da tante circostanze, ci sono alcune circostanze che hanno profili penali, non so, la contabilizzazione di fatture per operazioni inesistenti, deve essere esattamente chiaro quali di queste ipotesi sono ricomprese e quali sono escluse, altrimenti il contribuente si potrebbe trovare a dover pagare un importo per rimpatriare e regolarizzare le proprie disponibilità detenute all'estero, e poi magari questo è l'avvio magari di sanzioni ancora maggiori sulla base di un'autodichiarazione. Questo evidentemente, finché c'è un confine di incertezza, io credo che il successo della manovra possa in qualche modo essere pregiudicato. Presidente Siciliotti, questo appena lo saprete, chiaramente sarà anche oggetto di un approfondimento, perché sono aspetti importantissimi sia il fronte fiscale che il fronte penale. Perché anche qui, ripeto, lo scudo fiscale ha tutto un insieme di limiti posti, appunto, per esempio non può essere richiesto da chi abbia già una contestazione in corso con il fisco, ma alcuni restano ancora da chiarire. Lei ha già introdotto anche il tema in qualche modo del redditometro. Allora veniamo anche alle domande che stanno arrivando al 349-238-6666. Molti ascoltatori condividono la sua proposta, che se ho ben capito è questa: a fronte di di entrate fiscali in calo, il Ministero dice tengono, però c'è un calo del 3%, ed è immaginabile in un periodo di crisi che le entrate fiscali, soprattutto l'IVA, quelle sulle società, calino, e a fronte di un'evasione che, per quanto contrastata, resta altissima, la più alta in Europa, oltre 100 miliardi di euro stimati, voi dite gli studi di settore rischiano di essere uno strumento inutile e ingiusto? No, diciamo gli studi di settore hanno la loro validità, ma devono avere la loro validità per quello che sono, quindi uno strumento indicativo di una capacità di reddito, non uno strumento che determina quella capacità di reddito senza potervi si opporre. In realtà non è così come io le sto dicendo, ma è così che è percepito nella larga pratica e talvolta anche dagli uffici delle imposte in questo modo. Aggiungasi a questo che è uno strumento, diciamo, di divisione, perché riguarda i piccoli autonomi e non riguarda i dipendenti, non riguarda la grande industria. Si rischia in qualche modo di avviare, mi passi la parola forte, una sorta di lotta di classe tra categorie di cui francamente in questo momento non si avverte davvero il bisogno. Viceversa, il redditometro, cioè il confronto tra la ricchezza spesa e il reddito dichiarato, è una cosa assolutamente democratica, riguarda il dipendente, l'autonomo, il ricco, il povero e addirittura il disoccupato. Nella misura in cui non riesce a dimostrare il tenore di vita che sostiene, evidentemente agli occhi di tutti c'è qualcosa da dover spiegare. Questo è un paese dove ci sono meno persone che dichiarano più di 100.000 euro di quanti siano gli automezzi di valore superiore a questa cifra che circolano in questo paese. Questo sicuramente è qualcosa che deve... Noi abbiamo il dovere di recuperare questa evasione, certo. È un dovere al quale si associa la categoria, una categoria che forse in talune situazioni... Un attimo Siciliotti, perché abbiamo problemi di linea. Comunque ho capito il suo ragionamento, e cioè, attenzione, gli studi di settore vengono visti come non come un accertamento qualunque, ma come una dichiarazione che tu devi guadagnare entro quella soglia. E aggiungo io, in un periodo di profonda difficoltà della struttura produttiva del paese, è chiaro che soprattutto alcune categorie soffrono moltissimo, e questa sofferenza non viene fotografata, aggiornata dagli studi di settore. Lei propone e poi si applicano, come lei ricordava, solo ad alcune categorie, escludendone in maniera arbitraria altre. Perché non introdurre il redditometro, che vuol dire, lo dico a tutti, non guardare qual è la media di quanto si guadagna in quell'area e con quell'esercizio commerciale com'è lo studio di settore, ma dire: se tu hai una barca, un'auto, noi sappiamo che ci sono in Italia pochissime persone, sono 120.000 quelli che dichiarano più di 100.000 lordi di reddito, e lo 0.2 comunque dichiara più di 200.000 euro loro di reddito, poi abbiamo 170.000 auto immatricolate di lusso ogni anno, abbiamo 72.000 barche sopra i 14 metri, insomma tutte cose incongruenti. Lei dice: andiamo a vedere con un redditometro come fai a giustificare la tua attività, la tua vita, con quello che è il tuo fatturato, così scopriamo perché alcune categorie dichiarano 15.000-18.000 euro in media. Questa è la media in Italia. E concretamente quale redditometro, che deve essere ampiamente revisionato e modificato? Difendo l'idea di confrontare reddito dichiarato con ricchezza spesa, dopodiché probabilmente nel tempo lo strumento va affinato, e per affinarlo la nostra categoria è largamente disponibile a discutere per farne uno strumento efficiente, democratico e tutelante dei diritti di tutti. E secondo lei, visto che lei è il presidente dei commercialisti, perché non si è ancora introdotto? Ma diciamo che esiste. No, introdotto come vorrebbe lei, cioè... Perché ci vuole una volontà politica, perché si toccano probabilmente degli interessi, ma oggi è arrivato il momento, se vogliamo veramente superare questa fase, che non ci possiamo permettere più, siamo al 117% di debito pubblico e quindi non è pensabile ricorrere più a questo, e siamo al 43% e passa di pressione fiscale, quindi probabilmente neanche da lì dobbiamo andare a prendere altre risorse, le dobbiamo andare a prendere da chi non ha pagato, e questa è una cosa che credo capiscano tutti e sono in grado di giustificare tutti, non è accanimento, è semplicemente legalità e giustizia. Sì, secondo me anche la politica potrebbe trarne un vantaggio da una campagna, diciamo così, del genere, perché quando la situazione è così difficile come vediamo in giro, beh, insomma, è inaccettabile che alcune categorie dichiarino meno dei loro dipendenti, dichiarino cifre veramente ridicole. È inutile polemizzare, sappiamo tutti che ci può essere il ristoratore che guadagna molto poco, ma che la media faccia 15.000 euro lordi l'anno, 18.000 euro lordi per i gioiellieri, giusto per citare due categorie, insomma, dai. Francamente non pigliamoci in giro, cerchiamo ancora di essere un programma serio. Grazie al presidente dei commercialisti e degli esperti contabili italiani, Claudio Siciliotti. Grazie a lei e ai suoi ascoltatori. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Parliamo adesso di borsa. Vedo però ancora molti messaggi sulla proposta arrivata dal presidente dei commercialisti italiani Siciliotti, che ha detto più redditometro meno studi di settore. Allora, ho capito che spesso i commercialisti, come scrivono alcuni di voi, possono essere, diciamo così, possono fare da consulenti sull'evasione, per usare un'espressione eufemistica, però una volta tanto che il presidente dei commercialisti propone un elemento che può andare a verificare, a fotografare meglio quella che è quello che è il tuo tenore di vita, anche per ridurre un po' questa evasione, non è possibile che tutti soffrano, le imprese mettono in cassa integrazione, perfino le banche fanno un giro di vite, il governo deve fronteggiare il debito e il deficit e l'evasione in questo paese risulta intoccabile. Lo dico, e chiaramente non ci riferiamo a un'evasione così fisiologica come c'è nel resto d'Europa, siamo tutte persone di mondo, parliamo dell'evasione patologica che c'è in questo paese. E visto che avete detto, lei sta dando cifre in libertà, ve le cito, sono gli ultimi dati dell'Agenzia delle Entrate, 200 i miliardi di imponibile nascosto al fisco ogni anno. Stiamo parlando del 14% di tutto il PIL italiano, praticamente... un sesto. Ancora 100 miliardi di sommerso assoluto e 93 miliardi di sottodichiarazioni. Ancora la dichiarazione media del contribuente italiano quando porta la dichiarazione dei redditi, quindi il lavoro autonomo, è 18.670 euro l'anno lordi. Stiamo parlando di una cifra che vorrebbe dire a spanne riuscire a vivere con 1.200-1.300 euro netti per tutta la media, senza famiglia, senza niente. Le persone che dichiarano più di 100.000 euro lordi l'anno in Italia sono 150.000. Le persone che dichiarano più di 200.000 euro lordi l'anno sono 75.000. Questo è il dato. Ristoratori, media delle dichiarazioni 13.500 euro, commercianti 12.000 euro, quelli all'ingrosso 19.000 euro lordi l'anno. Praticamente... i dipendenti hanno dichiarazioni più alte, 19.000 euro, e i pensionati guadagnano quanto i ristoratori. Ripeto che qualche ristorante e pizzeria sia in difficoltà, lo sappiamo, ma che, diciamo, i ristoranti in Italia guadagnino quanto un pensionato, non pigliamoci in giro. Ultimo dato, e poi parliamo di borsa. Le auto circolanti con cilindrata superiore ai 2.500 cc sono 1.000.000 in Italia. Le barche sopra i 10 metri sono 94.000, le barche sotto i 10 metri sono 500.000. Qualcosa non torna, e non aggiungo altro. Adesso la borsa. Piatta Wall Street, sembra una finzione, 0,00 l'indice Dow Jones in questo momento. Era tempo che non vedevo un indice fermo così da ieri. e invece meglio ha fatto l'Europa: Parigi più 0,6, Francoforte più 0,1, Londra più 0,5, Milano più 0,3%. In evidenza Pirelli, grazie a una notizia vera di mercato, non a speculazioni, analisi e target price. Guido Maurino, Radio Corri sulle 24 ore, buonasera. Buonasera. La notizia su Pirelli che ha guadagnato il 3,1%. Sì, la società ha annunciato oggi la sottoscrizione di un accordo in Cina per la realizzazione, insieme a un partner locale, di un impianto di produzione di filtri antiparticolato. Questa è la notizia che ha fatto un po' guadagnare il titolo. L'inizio della costruzione della nuova fabbrica è prevista entro il primo trimestre del 2010, l'investimento era già previsto nel piano industriale 2009-2011 e terrà conto dell'evoluzione del mercato. Si potrà arrivare nel triennio fino a 50 milioni di euro di investimento, con una capacità produttiva di circa 100.000 filtri all'anno. E questo fa crescere il titolo, che si riporta a 37 centesimi di euro per azione. Parmalat più 2,7, Unipol più 1,80%, bene anche Campari più 1,8, Telecom più 1,7, Buzzi più 1,3 come Geox, Terna e Tenaris. L'1% è guadagno di Snam, Mondadori lo 0,90, quello di Autogrill e Ubibanca. Più 0,7 Bulgari ed ST Microelectronics. Fronte opposto invece, tra chi ha più perso, vediamo un problema con il computer, Atlantia che perde in questo momento, ha perso in chiusura lo 0,90%, Banco Popolare meno 0,7%, Mediolanum meno 0,6%, Unicredit mezzo punto percentuale di calo. Continuiamo con i commenti, Parmalat e Unicredit. Sì, allora, su Parmalat oggi il titolo è stato in evidenza a Piazza Affari, ha guadagnato 2,76%, gli operatori ci spiegavano che il titolo è sotto il riflettore in vista dello stacco dell'acconto sul dividendo che è in calendario per lunedì. Lo scorso a fine luglio, infatti, il CDA di Parmalat aveva deciso la distribuzione di un acconto sulla cedola 2009 pari a 0,041 euro per azione, e in questa fase il titolo beneficio della notizia e dell'attesa per lunedì. Beh, dell'attesa per lunedì prossimo. Su Unicredit invece abbiamo visto un pezzo oggi, un articolo su Sole 24 Ore, in cui in sostanza, se l'ho ben capito, si dice che Unicredit potrebbe avere accesso ai Tremonti bond austriaci, cioè ai soldi che il governo austriaco ha messo a disposizione delle banche, come hanno fatto altri governi, compreso quello italiano, per ricapitalizzare Bank of Austria, ma non solo se accetti Tremonti bond italiani? Sì, è così come dicevi tu, perché già in passato l'amministratore delegato Alessandro Profumo aveva parlato di un ricorso agli aiuti governativi per complessivi 4 miliardi di euro, la stessa cifra che dovrebbe richiedere anche Intesa San Paolo. E Profumo aveva detto che questi 4 miliardi di euro sarebbero stati equamente spalmati fra l'Italia e l'Austria. Solo che l'Austria sembra aver condizionato i suoi 2 miliardi, diciamo la sua quota, al fatto che altrettanto faccia anche il governo italiano. Per cui diciamo oggi il titolo ha perso lo 0,48% su possibili piccole difficoltà legate a questa cosa, ma diciamo anche che è stata una giornata in cui tutto il settore bancario è stato piuttosto debole, anche sì. Il Banco Popolare ha ceduto lo 0,68%, Mediobanca meno 0,37%, insomma non una grande giornata per i titoli bancari e finanziari. Dopo le informazioni per chi è in viaggio, invece vorrei commentare due titoli minori, ma o meglio i migliori e i peggiori in assoluto. Gabetti meno 7% da un lato, Danieli molto bene invece, più 6,3%. Bene anche Banca Generali più 8, Indesit più 10, Ross SPA più 17% e IV Bank più 6,9%, P Quadro più 6,80%. Di nuovo in diretta, allora commentiamo due titoli minori. Guido, Danieli bene, più oltre il 6% di rialzo da un lato, e Gabetti male, peggior titolo oggi del listino, meno 7%. Sì, allora Allora, su Danieli il rialzo è dovuto anche qui a una notizia comunicata oggi dalla società, in particolare si tratta della firma di un accordo per la fornitura di un nuovo impianto siderurgico da costruirsi nell'Emirato di Abu Dhabi. Si tratta di una commessa che ha un valore di 500 milioni di dollari e quindi questo spiega il rialzo del titolo oggi. Per quello che riguarda Gabetti invece la flessione di oggi, meno 7%, è da intendersi soprattutto come una decisione degli operatori di prendere beneficio dopo che il titolo aveva guadagnato addirittura il 54% nelle ultime quattro sedute. Si è trattato anche qui di una speculazione, come avevamo già visto in passato quando ci sono stati aumenti di capitali, e anche qui, anche su Gabetti abbiamo un aumento di capitale, il titolo aveva guadagnato molto e oggi gli operatori hanno preso beneficio. È proprio così, scende a 1,37 euro, ma forti erano stati i rialzi nei giorni scorsi. Grazie a Guido Maurino, il Radio Corriere Sole 24 Ore. Restiamo in tema di mercati, ma mercati delle cosiddette commodity, o meglio in questo caso dell'oro. Eh sì, perché c'è un mercato che ha guadagnato il 16% nel 2009, ma anche il 3% nel 2008, e quindi chi avesse comprato l'oro un anno fa di più, a inizio 2008, starebbe ben contento in questo momento. E soprattutto c'è un metallo, perché di questo stiamo parlando, come l'oro, che ha toccato nei giorni scorsi $1,000 l'oncia. Immagino che si festeggi a Vicenza, dove praticamente domani termina il più importante appuntamento italiano e europeo nel settore orafo, è Vicenza Oro Choice, 1400 espositori su 53.000 metri quadrati, dico il più importante perché l'Italia è il primo esportatore al mondo di oro, 5 miliardi e mezzo di euro ci vale esportare oro, Vicenza e Arezzo e poi Alessandria sono le tre capitali dell'oro in Italia e quindi anche a livello mondiale, vuol dire 6 miliardi di euro di produzione, 130.000 dipendenti tra produttori e distributori per oltre 10.000 aziende. Dottor Domenico Girardi, direttore generale della Fiera di Vicenza, buonasera. Buonasera, buonasera. Come sta andando? Perché ho visto dati meno 32% la produzione orafa rispetto all'anno prima, meno 22% l'export. Almeno avete l'oro a $1,000 l'oncia. Sì, ecco, questo valore dell'oro non è propriamente, non rende propriamente entusiasti i nostri produttori, naturalmente, anche se magari genera dei dati in valore che sembrano tenere. Quello che è successo i primi 6 mesi dell'anno è che la crisi congiunturale ha colpito molto pesantemente questo settore. È una crisi, tra l'altro, che per questo settore è anche un po' strutturale, per cui stanno anche un po' cambiando i modelli di consumo, ma in realtà oggi a Vicenza siamo comunque molto contenti. Allora, intanto comunico a chi ce lo chiede, come ogni volta che parliamo di oro, un'oncia vale 28,35 grammi. Andiamo avanti sulle criticità, perché è vero che voi tenete, è andata bene la fiera. Molti ascoltatori, glielo dico così, diciamo, uso gli ascoltatori per fare il mio lavoro, ci hanno scritto che in realtà c'era una grande concorrenza di operatori cinesi per i bassi prezzi che praticavano negli stand, con file davanti agli stand dei cinesi, con grosso così disappunto degli operatori italiani. È un'esagerazione? Sì, questa è un po' un'esagerazione. In realtà quello che noi abbiamo visto questi giorni è stato un ritrovato interesse che dà un po' un segnale positivo anche al nostro settore, che ne aveva molto bisogno. La nostra fiera qui a Vicenza, pur essendo uno dei quattro appuntamenti mondiali e direi il leader europeo in assoluto, è una fiera che è molto tarata sul prodotto italiano. Il 70% delle nostre aziende qui espositrici sono italiane. Quello che è successo in questi giorni è che certamente qualche operatore, soprattutto sulla fascia bassa di prodotto cinese, ha avuto anche lui successo, ma la cosa più interessante invece che noi registriamo è stato il lavoro svolto da alcune delle nostre aziende italiane che hanno investito molto credendo comunque di dover resistere a questo momento difficile. Ecco, la vera novità rispetto a maggio e a gennaio è proprio questa crescita di operatori che sono venuti a settembre, che stiamo registrando, e soprattutto il fatto che hanno lavorato. Lavorato vuol dire incontri B2B, come si dice in gergo, business to business. Sì, no, la nostra fiera ha una caratteristica che è quella di essere ancora una fiera in cui si prendono ordini, quindi è immediatamente, ci dà immediatamente il polso della situazione. È una fiera in cui accanto ai workshop e al momento di incontro tra domanda e tra attori, che serve un po' a capire quali sono i trend futuri, però si fa anche business. Per cui in realtà quello che è successo è che sono stati scritti molti ordini qui in questi giorni, il che non significa che probabilmente la crisi è superata, ma senza dubbio dà degli elementi di speranza importanti. Beh, in bocca al lupo, come facciamo in questi mesi a tutti i settori produttivi che intervistiamo. Complimenti, perché mi sembra comunque che il bilancio del penultimo giorno della fiera dell'oro di Vicenza sia positivo anche per gli incontri e il numero di partecipanti, elementi importanti. Grazie quindi al direttore generale della fiera, Domenico Girardi. Grazie molto ancora. Mio Dio, volete sapere addirittura dove si trova l'oro nel mondo? Qual è il paese che ha... Questo non ve lo possiamo dire. Quello che possiamo dirvi è che le banche centrali a livello mondiale hanno circa il 30%, cioè un terzo di tutto l'oro esistente al mondo. Si calcola che dalla storia dell'umanità siano state estratte 121.000 tonnellate di oro. Dicevo, un terzo è nelle cassaforti, nei forzieri delle banche centrali. Un altro 20% è nelle mani dei privati, lingotti, monete, c'è qualcuno che colleziona lingotti, beato lui, e poi il 50%, cioè la metà esatta, è oreficeria e gioielleria. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per la seconda parte di Focus Economia. Come promesso, ci occuperemo di auto e di calzature. Oggi facciamo una puntata tutta dedicata anche ai settori produttivi, così lasciamo in pace gli istituti di previsione economica. Però è arrivata una notizia ora che si integra con il nostro primo tema d'approfondimento, ossia scudo fiscale da un lato, redditometro dall'altro. Vi ricordo che era il nostro ospite il presidente dei commercialisti italiani, che appunto faceva notare in diretta come mancassero ancora dei chiarimenti sullo scudo fiscale per quello che riguarda alcuni elementi di carattere penale. Allora, l'Agenzia delle Entrate poco fa ha fatto sapere che in sostanza l'emersione possibile attraverso il cosiddetto scudo fiscale non esenta gli intermediari, e chiaramente dall'obbligo previsto da tutta la normativa antiriciclaggio. Questo è molto importante, perché invece erano esentati nelle precedenti operazioni di rientro dei capitali, cioè negli scudi fiscali 1 e 2. In questo caso, quindi, c'è un obbligo di comunicazione di operazioni sospette sotto il profilo delle norme relative all'antiriciclaggio, e quindi l'unica eccezione riguarda i comportamenti legati all'infedele o omessa dichiarazione dei redditi, per cui questo non verrà comunicato. Come abbiamo spiegato, l'Agenzia delle Entrate non riceverà informazioni su quanto capitale è rientrato da parte di un singolo soggetto, con il paradosso che ricordava prima Siciliotti, che chi ha fatto rientrare i soldi dall'estero potrebbe poi risultare incongruo per l'Agenzia delle Entrate, che non sa che li ha fatti rientrare, magari scopre che il soggetto ha comprato una barca piuttosto che un'altra casa. Ma insomma, non esiste l'unico, esenzione è quella sull'omessa dichiarazione dei redditi o infedele dichiarazione dei redditi. Tutti gli altri ordinamenti e sanzioni dell'antiriciclaggio restano in vigore. Dallo scudo fiscale, di cui non possiamo adesso più parlare, lo dico a chi continua a scrivere al 349-238-6666, parliamo di auto, o meglio della crisi vista dal Salone di Francoforte. Nel giorno in cui il dato europeo segnala immatricolazioni in aumento del 3%, tra l'altro molto bene la Germania, più 28%, bene anche la Francia, più 7%, la Gran Bretagna, più 6%, bene il gruppo Fiat, la quota di mercato sale al 7,5% e le immatricolazioni del gruppo Fiat in agosto sono salite dell'11%. Dicevo, in questo giorno a Francoforte si accendono i riflettori sul 63esimo salone dell'auto, oggi, domani le giornate dedicate alla stampa, poi il 17 apertura al pubblico e i primi dati della crisi si vedono. Andrea Malani, inviato da Sole 24 Ore a Francoforte, buonasera. Buonasera a tutti. Ma è vero che ci sono meno espositori di 2 anni fa e anche case? 30% in meno di espositori e tra le case costruttrici vere e proprie mancano soprattutto molti giapponesi. Non c'è Honda, non c'è Nissan, non c'è Mitsubishi, che hanno tutte, data l'annata di crisi, voluto risparmiare sui costi e quindi escluso un salone che per loro è il meno importante rispetto a quello di casa di Tokyo e rispetto a un Detroit che negli Stati Uniti sappiamo, dove sappiamo che negli Stati Uniti i giapponesi hanno una presenza fondamentale. Questa crisi, l'abbiamo detto più volte, può avere anche degli effetti positivi, cioè un po' più di sobrietà, consumi un po' più attenti, magari più ragionati. E allora questa diciamo possibile nuova filosofia di consumo viene interpretata già dalle case automobilistiche, cioè ci sono più modelli piccoli, meno modelli di lusso, ci sono più modelli che risparmiano, ecco compatibili, chiamali come vuoi. Diciamo che ci sono delle grandi contraddizioni come ogni volta, cioè c'è una grande diffusione di modelli elettrici o ibridi, tutti ci scommettono, con quale attendibilità nel breve periodo è difficile capire, molti dicono prima del 2014-2015 non si potrà, Renault scommette su un inizio 2011 con i primi modelli, alcuni addirittura a fine 2010, ma con volumi che saranno ancora troppo piccoli. Questo da un lato. Dall'altro noi abbiamo delle presentazioni ovviamente delle case sportive di lusso, le Ferrari, le Rolls Royce, le Bentley, che non vengono certo meno, ma anche, voglio citare un dato che può sembrare una stupidaggine ma dà l'idea, la Skoda ieri ha presentato la nuova familiare della propria ammiraglia. Ora questa familiare ha un cofano che si chiude con un motore elettrico per risparmiare lo sforzo a noi di tirarlo su e giù. È chiaro che nel momento in cui si aggiunge un motore elettrico anche per tirare sul cofano, l'obiettivo di avere una macchina più ecologica è un po' contraddetto, magari poi avrà un motore super risparmioso, ma diciamo che il settore auto vive sempre un po' tra queste due contraddizioni, quindi la cioè, ricerca il comfort, tecnologia. Esatto, la tecnologia applicata al comfort e poi invece i risparmi. Ma venendo al tema che mi interessa molto, cioè le piccole, ho visto che vi sarà la Mini Coupé la Smart con motore elettrico, anche la Volkswagen esporrà una versione elettrica. La Volkswagen ha presentato la versione elettrica della sua app, una piccola che si era già vista un paio d'anni fa a Francoforte. La Renault ha presentato tra le sue piccole addirittura una biposto a tandem, che è un po' una via di mezzo tra un motociclo e un'automobile. La Peugeot ha presentato una specie di Smart, insomma è una macchina concorrente, ma insomma una macchina ancora più compatta, 2,5 metri, ma con 4 posti, con delle soluzioni anche lì un po' motociclistiche. La fantasia si sbizzarrisce, poi quanti di questi modelli vedremo effettivamente sulle strade e soprattutto quanta gente riuscirà a comprarli è un altro discorso, è ancora, ripeto, molto incerto. Però ci puoi confortare dicendoci che un po' più di attenzione, soprattutto nei marchi che producono per il mercato di massa, all'auto elettrica, all'auto ibrida, ai consumi c'è oppure solo marketing? Assolutamente, no, non c'è solo auto elettrica, naturalmente tutti, cito qui anche il gruppo Fiat, scommettono su motori anche a benzina ma molto più risparmiosi. La Fiat ha presentato il Multi Air, che è un motore a benzina che dovrebbe rispetto alla generazione precedente risparmiare un 15% sui consumi ma con più potenza, e nella direzione di Fiat vanno anche case come la Ford o la stessa Volkswagen. C'è sicuramente un'attenzione al risparmio che è resa necessaria, ricordiamolo, anche dalle nuove norme che a livello europeo entreranno in vigore, che impongono dei limiti alle emissioni e quindi anche ai consumi, quindi sicuramente si va in questa direzione. Non si sa se ci si arriverà con dei motori elettrici, con dei motori ibridi o con dei motori a benzina o diesel più efficienti di quelli di adesso. Beh, però è già qualcosa, diciamo, ecco, mettiamola così. Grazie ad Andrea Malan in collegamento con noi da Francoforte, dove oggi si è aperto per la stampa, poi 17 per il pubblico, il Salone dell'Auto. Ultima ultima parte di Focus Economia, con voi come sempre Sebastiano Barisoni. Dicevamo il settore delle calzature. Il nostro viaggio infatti nei vari settori produttivi continuerà anche nei giorni prossimi, come già fatto nelle scorse settimane, e cogliamo come sempre in questo programma l'occasione anche di elementi di cronaca. Domani si apre fino al 19 settembre il Salone della Calzatura MICAM 2009. L'Italia, essendo il primo produttore di scarpe in Europa e il sesto al mondo, ha il salone più importante in Europa, 1600 aziende espositrici, di cui 600 estere, che rappresentano un settore che da noi vale praticamente 7 miliardi e mezzo di euro quasi, di cui l'80% delle scarpe italiane sono vendute all'estero. Stiamo parlando di 86.000 addetti per oltre 6.000 aziende. Presidente dell'ANCI, inteso come Associazione Nazionale Calzaturieri Italiani, Vito Artioli, buonasera. Buonasera. Allora, che cosa vi attendete? Perché i dati sull'export, insomma, anche voi non è che ridiate molto: meno 16% nei primi 5 mesi 2009, meno 15% in valore, crollo delle esportazioni in America, meno 30%, e in Russia, meno 25%. Purtroppo lei ha ragione. Certo, non possiamo differenziarci molto dagli altri settori, in quanto la crisi è globale, è iniziata con la bolla finanziaria e immobiliare e poi è passata naturalmente nel manifatturiero e quindi anche nel calzaturiero, e anche noi ne stiamo pagando le spese. Certo, andiamo forse meno male di qualche altro settore, per esempio il conciario, che è a monte della nostra produzione, cioè ci produce delle materie prime per produrre le scarpe, va anche peggio. Anche la meccanica industriale va peggio, però non so quanto bene vi faccia dire che... No, non ci fa molto bene dire che c'è chi va peggio, ma insomma voglio dire che la situazione, cioè, non è causa nostra. No, certo. Questo volevo dire, che non è causa nostra se le cose vanno male, perché noi ce la stiamo mettendo tutta, anzi, stiamo reagendo con tutte le nostre forze, perché se finalmente il trend cambierà, noi saremo pronti a prenderlo in pieno. Ecco, Presidente Artioli, qualche segnale lo vedete di cambiamento o ancora no? Per ora di segnali evidenti non ce ne sono assolutamente. Per esempio, chi ci ha raccontato nella prima ora come sta andando la fiera dell'oro di Vicenza, ha fatto notare che per fortuna sono aumentati gli espositori e anche gli incontri business to business, e questo per loro è un segnale che la cosa si stanno muovendo nel settore orafo. Sì, può anche darsi che la stessa cosa potrà accadere, a cominciare da domani, nel settore calzaturiero col MICAT. Ce lo auguriamo tanto di poter imitare l'orafo. Certo che abbiamo mantenuto lo stessi spazi espositivi, quindi non abbiamo perso un metro di spazi espositivi, abbiamo gli stessi espositori delle altre due manifestazioni che erano già in caduta. Questa è la terza manifestazione in caduta economica, e quindi stiamo tenendo abbastanza. Per quanto riguarda la fiera, la nostra fiera internazionale è la più importante del mondo, e dobbiamo dire con molta franchezza che c'è una caduta invece delle fiere, di tutte le fiere, qualcuna chiude addirittura, qualcuno non ce la fa più. Noi invece, essendo la fiera più importante, fiera di riferimento, la devono per forza visitare tutti coloro che vendono calzature a un certo livello. Ecco, quindi noi cercheremo di approfittare dell'occasione per vendere il massimo possibile e per riprenderci il più possibile. Una domanda all'imprenditore in questo caso, non al presidente dell'Associazione Nazionale dei Calzaturieri. Lei personalmente, visto che lo facciamo molto imprenditori questa domanda in questi giorni, come sta reagendo la crisi, cioè, ma molto molto concretamente, sta andando a rivedere i costi di produzione, la struttura commerciale? Certo, bravo, lei ha già capito. Stiamo cercando. Così, però faccio le domande e mi do le risposte. No, vorrei capire invece concretamente dove sono i punti su cui mettere le mani per comunque reggere il colpo ancora per un bel po' di mesi. Noi intanto cerchiamo di migliorare ancora di più se è possibile, in quanto noi crediamo che sia sempre possibile migliorare la qualità del nostro prodotto. Quindi cerchiamo di creare modelli sempre più innovativi, cerchiamo di trovare delle soluzioni tecniche più interessanti, cerchiamo di dare insomma un prodotto che abbia un appeal maggiore per il compratore. Non puntiamo certamente sul prezzo, perché la nostra scarpa è competitiva per la qualità. paga. Quindi il nostro compratore, semmai, la paga anche di più, ma vuole qualcosa di eccezionale. Quindi io e la rete, come, la rete di vendita? La rete di vendita, perché ogni tanto le imprese italiane hanno problemi proprio nella rete di commercializzazione. Ecco, cioè, su quello cerchiamo di anche attraverso la nostra ANCI, naturalmente, non posso dimenticare di essere presidente ANCI, di intensificare tutti i nostri sforzi per la presenza all'estero in tutte le manifestazioni possibili e immaginabili, facendo venire dei compratori a nostre spese in ditta per vedere la ditta, per comprare, vedere la showroom, eccetera, eccetera. Cioè usiamo tutto il marketing possibile e immaginabile nella sua massima ampiezza. Un'ultima domanda, Presidente Artioli, che viene suggerita come altre volte dagli ascoltatori. Va bene, lei produce scarpe di lusso, quindi dice non ha senso per me ragionare sul prezzo come elemento competitivo, uso altri elementi, però in generale l'industria calzaturiera italiana ha smesso di sperare di poter concorrere sul prezzo vista la concorrenza spietata cinese, oppure c'è ancora la possibilità? No, ha smesso nel modo più assoluto. Noi puntiamo solo sulla qualità, sul fatto bene, sul bello, sulla linea, sull'inventiva, sui materiali, sulle tecnologie. Prepariamo i giovani professionalmente sempre di più, facendo naturalmente dei grossi sforzi, perché curare i giovani costa. Ma non è sul prezzo, non è la ricerca tecnologica. Non è con la Cina la vostra sfida. Dai, non è con la Cina la vostra sfida. No, con la Cina non c'è nessuna sfida, se non quella che i cinesi si comportano come lei sa. Purtroppo. No, non lo so perché, però. Non sono molto reali. Non sono molto leali, non sono gli unici al mondo. Comunque, sì, non sono gli unici, però no, vabbè, ne abbiamo parlato molte volte. In settore sono i peggiori, vabbè. I peggiori, ecco. Così adesso aspettiamo anche un po'. Si fanno il dumping, siamo stati costretti a far approvare una legge antidumping a livello europeo. Questa legge antidumping l'ha fatta anche recentemente, alcuni giorni fa, il Brasile, sempre nei confronti della Cina. Quindi non siamo gli unici che subiamo questa concorrenza sleale da parte della Cina, perché poi non è solo una questione di prezzo, è una questione anche di igienicità del prodotto, procura malattie il prodotto, non calza, usano materiali che impossibili, fanno delle scarpe, insomma, diciamo la verità, insomma, i cinesi non sono dei concorrenti leali. Vabbè. E noi vorremmo tanto che lo fossero, faremo di tutto, ne discuteremo con loro, cercheremo di raggiungere degli accordi, insomma, ma certamente così come vanno le cose con la Cina non vanno molto bene, insomma. Allora, in attesa di una replica del consolato cinese a Milano, io la ringrazio. No, a parte gli scherzi, noi spesso in tempi non sospetti, se lo ricorderà Artioli, cioè ben prima che scoppiasse questa crisi, ci siamo occupati della concorrenza sleale anche e soprattutto cinese nei confronti del nostro tessile e del nostro calzaturiero, anche perché questo ha causato una vera e propria emorragia di aziende che hanno chiuso, di dipendenti licenziati. Nei primi 6 mesi, così rispondo a un'altra domanda, i posti di lavoro persi nel settore calzaturiero sono stati 1840, con 143 aziende chiuse, intendo dire solo come calzaturifici. Grazie a Vito Artioli, presidente dell'ANCI. Da Sebastiano Barisoni è veramente tutto. Io vi lascio alla nostra programmazione, vi auguro una buona serata, ci risentiamo domani dalle 17 in poi.